in scena con Agorà, giunta all'ottava edizione, e per la giornata di domenica 26 maggio, ovviamente 2024, siamo nel territorio di Galliera, nell'area di riequilibrio ecologico Bisana. Uno spettacolo o due in questo caso, sicuramente avremo la possibilità di saperne di più grazie a Enrico Deotti dei Teatrino Giullare. Grazie, bentornato e buongiorno Enrico. Buongiorno, grazie. Lettere a un lupo e la tragedia di Roncisvalle con bestie. È uno spettacolo che presenterà al suo interno due rappresentazioni teatrali. Parleremo anche della particolarità, anche della location di questo teatro, insomma. Intanto ci puoi dire un po' di cosa parlano, di cosa parla questo motivo di incontro e di spettacolo, Enrico? Sì, presentiamo due testi di Giuliano Scabbia che molti anni fa pubblicò per Einaudi una straordinaria raccolta di racconti e commedie intitolata Teatro con Bosco e Animali. Fra le tanti spunti contenuti all'interno di questa raccolta ci sono appunto le lettere a un lupo, in cui l'autore immagina di avere una corrispondenza con questa bestia feroce che in realtà è più dentro di noi che fuori di noi, portandogli delle lettere nel bosco e avviando con lui una sorta di conversazione, confessandogli forse come solo un animale si può fare con una sincerità tale i suoi pensieri. E segue poi un altro testo molto divertente, La tragedia di Roncisvalle con bestie, in cui l'autore descrive gli ultimi momenti della vita del celebre Orlando Paladino, seguendo un po' la tradizione dei cicli eroici dei paladini, commentando appunto l'ultima battaglia, quella di Roncisvalle, in cui Orlando perse la vita, però dal punto di vista degli animali che si affacciano dal bosco e osservano stupiti, senza capire, la guerra che si fanno gli umani. Bellissimo. Veramente, guarda, tra l'altro quando poi c'è questo dialogo che è molto concreto con quelle che nell'immediato definiamo bestie, ma in realtà, non vorrei cadere nella retorica, per certi aspetti molto, ma molto più umani, e abbiamo tanto da imparare. Tra l'altro il lupo, ricordo San Francesco che parlava e che porta a essere mansueto questo feroce lupo, insomma, e i riferimenti letterari ce ne sono tantissimi anche in questo caso. Beh, La tragedia di Roncisvalle. Protagonisti, allora, chi c'è in scena con queste due idee e queste due traduzioni a teatro per i testi di Giuliano Scabbia, Enrico? In scena c'è Teatrino Giullare, Giulia Dall'Ongaro ed Enrico Deotti, e alla fisarmonica ci accompagna David Sarnelli. Ma ci saranno anche gli animali? Chiamiamoli animali. Beh, questo è uno spettacolo pensato per spazi non teatrali e specificamente da fare in natura. Certo. Quindi saremo dentro un boschetto vicino al fiume, in quest'area di riserva del ripopolamento, quindi speriamo che gli animali si affaccino, ma comunque ci saranno anche le presenze, saranno evocate anche dagli attori. Certo, certo, indubbiamente, però sai, mi sono lasciato trasportare dal luogo che conosco, fra l'altro. Puoi restare un po' in diretta che ascoltiamo un po' di musica, poi rientriamo per completare la nostra conversazione, Enrico? Naturalmente. Grazie, a tra poco. vibration in my bones. But I'm sitting here in my room all alone. Ooh, I'm missing you. You said you loved me forever. Wish I was kissing you and we could be together. Questo dialogo chi è che non lo tiene? Dai, io per primo, fra l'altro, con la mia anziana gatta Sophie, che saluto magari all'ascolto, lascio sempre un filo di radio accesa. Beh, lei ha 20 anni ormai, pensate, in un corpo di una cucciola, persino la veterinaria è arrabbiata per questo, ma come a 20 anni sembra una cucciola, eppure è colpita da Alzheimer felino. Lei sa tutto di me, lei ha visto tutto, lei sa tutto, spesso le confido anche quello che non dovrei confidare, ma nonostante i gatti siano così simbolo del tradimento, io penso che lei sia molto fedele. Lettera a un lupo, la tragedia di Roncisvalle con bestie, dopo questo piccolo incipit nella seconda parte di presentazione a titolo personale, ma per coinvolgere ulteriormente ascoltatrici e ascoltatori, ad essere domenica 26 maggio alle ore 17.30 e 18.30 all'area di riequilibrio ecologico Bisana e in via Renovest nel territorio di Galliera. Tra l'altro, come tra virgolette teatro, è splendido. Allora ci sei nonostante le mie chiacchiere, Enrico? Sei ancora? Ci sono ancora, sì. Okay. Ti ascolto con interesse. Vedi, anch'io potrei essere tra il pubblico e scrivere lettere o confidare segreti a chi, chiaramente, in maniera... Sono grandi ascoltatori gli animali, molte volte, Enrico. Sì, grandi ascoltatori e grandi osservatori, sì. Gli animali ci guardano. Sì, sì, sì, in questo caso con la tragedia di Roncisvalle nella seconda parte, guardano un po' straniti quello che sta succedendo negli ultimi attimi di Orlando, da quello che hai detto. Sì, per gli animali osservano senza capire questa battaglia furibonda che si fanno gli umani, questa guerra, questo massacro che avviene a Roncisvalle. Loro sono interessati ad altre cose, alla loro ricerca del miele, gli orsi per esempio, sì. La lepre deve solo tentare la fuga, e il cervo osserva le armature dei cavalieri. Non capiscono questo sacrificio e questo sangue sparso nel bosco. Dicono perché tutto ciò? Eppure le necessità primarie sono ben altre. E come dare torto a queste riflessioni, ovviamente. E per quanto riguarda... È così. E poi l'immagine di un lupo che è il destinatario di una corrispondenza con Lettere a un lupo. Beh, testi di Giuliano Scabbia... Molto interessanti. Come mai questa scelta, oltre che quello che abbiamo appena portato, Enrico? Beh, i testi di Giuliano Scabbia sono straordinari. Da pochi giorni ricorrono i 3 anni della sua scomparsa. Ci ha lasciato un grandissimo drammaturgo, ma soprattutto un grandissimo uomo di teatro, straordinario nel suo insegnamento al DAMS per 30 anni, ha formato generazioni di studenti, ha ispirato generazioni di studenti più che altro, cercando in ciascuno le proprie qualità. È un insegnante che non si dimentica ed è anche uno dei grandi rivoluzionari del teatro italiano del secondo Novecento, di quelli che ha iniziato il nuovo teatro. È l'ottava edizione di Agora, domenica 26 maggio, ore 17.30 e 18.30, area di riequilibrio ecologico Bisana, via Renovest nel territorio di Galliera, Lettera a un lupo, la tragedia di Roncisvalle con bestie. Per aggiungere qualcosa, informazioni per raggiungere il luogo, oppure se vogliamo dare altre informazioni, chiamiamole logistiche al pubblico, vuoi aggiungere e completare tutto ciò, Enrico? Sì, l'area è isolata, i posti soprattutto sono limitati perché essendo un'area di ripopolamento dobbiamo anche essere una presenza molto delicata, quindi sì, per questo faremo due repliche per due piccoli gruppi di spettatori, quindi prenotate prima di venire. Attraverso ovviamente il sito di Agorà e attraverso sì, le possibilità che vengono offerte da questa rassegna. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, chiaramente anche un buon weekend e grazie ancora per questa conversazione. Ciao Enrico. Ciao, grazie, vi aspettiamo. Bacchetta magica dell'amore, The Magic Wand of Love. Ci accompagna alla conclusione di questa colazione in diretta con il teatro al Breakfast Club. È momento di planato, una planatina piccola piccola, non sto ad ammorbarvi spiegando nuovamente cos'è la planata del venerdì, giusto un minutino per i saluti, per augurarvi un buon weekend. Chiaramente lunedì con i magazine e il Breakfast Club si riprende, certo fino al 31 luglio 2024 faremo colazione assieme con Radio Città Fujiko e il Breakfast Club. Con un caloroso abbraccio e con un augurio di buon venerdì, vigilia di weekend, mi congedo a voi e con un buon ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Servo vostro William Piana vi dà appuntamento a lunedì. How long? Loro sono gli Ace. Ciao a tutte, ciao a tutti. Stavo per dire a tra poco. Attenzione. Ciao, buona giornata.